Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tra tutti i messaggi già arrivati, quello di gran lunga il più importante è firmato da Fabrizia, arriva da Verona e dice: il segnale a Verona città va e viene, potete fare qualcosa. Questo segnale, questo è un messaggio, dicevo, fondamentale. Dobbiamo fare qualcosa perché da domani quasi tutta Radio 24 si sposta in massa a Verona per la fiera del vino per Vinitaly, e saremo in parecchi da domani a lunedì prossimo a trasmettere da lì, quindi questa è una priorità assoluta. Le domande di oggi sono certamente tante, ma la prima in ordine di tempo è per Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Da quando è che rassegnava Educa? Non mi ricordo bene. Tra l'altro qualcuno ieri sera, molti. Fortunatamente il tuo programma ha molti ascoltatori, poi quando io parlo la sera o il pomeriggio o anche la mattina dopo, tutto quello che non si è verificato rispetto alle mie previsioni mi viene rinfacciato. Più o meno rinfacciato, ma accade anche qua. D'altra parte, solo chi non ci prova non sbaglia mai. Non c'era mica bisogno di provarci, nel senso di dire che l'Inter era più forte e rimane più forte dello Schalke 04 non mi sembra una bestemmia. Ma certo. Edu ha fatto 2 gol in tutta la sua stagione della Bundesliga ed è un giocatore di 30 anni che è arrivato dal Brasile in Bundesliga, ha fallito le prime 2 stagioni in Bundesliga, ha giocato 3 anni nel campionato coreano e poi, per motivi che non conosco, è tornato in Bundesliga ed è uno dei tanti Edu che girano come nel panorama europeo. Come forse tu saprai, qui la sede del Sole 24 Ore di Radio 24 è a 2 passi dall'albergo che ospita sempre, zona San Siro, che ospita sempre le squadre straniere che vengono qua a giocarsi le coppe e anche molte italiane in campionato. Nella tarda serata di ieri un illustre giornalista del Sole si è trovato di fianco a Edu a ritirare la chiave dal portiere. E quando gli hanno detto, quando è salito in camera e ha visto i filmati dei gol e ha messo fuoco da un primo piano del dopogol, che quello che aveva tirato la chiave di fianco a lui era quello che ha segnato 2 gol all'Inter, ha avuto una crisi di identità, credo, perché dice che un impiegato del catasto piuttosto grassoccio avrebbe. Questo è il ritratto di uno che non aveva segnato un gol a dicembre, mi sembra avessi detto tu ieri. E invece ieri sera, sai qual è la spiegazione? Probabilmente è vero che Edu non segnava a dicembre, ma è da allora che non giocava contro Chivu, no? Guarda, le battute ormai si sprecano. Devo dirti che quando settimana scorsa l'Inter scrisse sul suo sito che Chivu aveva una lesione muscolare importante, ormai è abbastanza chiaro che la parola importante viene usata e strausata in maniera anche abominevole a volte. E evidentemente la lesione non era importante, perché a casa mia le cose importanti poi hanno un seguito, ma a questo punto forse i tifosi dell'Inter potevano augurarsi che fosse davvero, perché se accoppiamo il derby alla partita di ieri sera, veramente un disastro assoluto. Disastro assai più grave perché mi pare, e poi ci spostiamo su Madrid e dopo su Inter Schalke, lasciamo magari esibire gli ascoltatori oltre ad un sacco di voci e di commenti da ascoltare, anche perché in un certo senso, giustamente, insomma, perché poi un alibi va sempre cercato ed era un alibi fondato, tutta l'Inter, a cominciare da Leonardo, aveva costruito la spiegazione del derby su quel gol a freddo dopo 44 secondi. Quando però il gol a freddo contro una squadra inferiore, perché su questo non si discute, lo segni tu dopo 27 e finisci 2-5, insomma, attenuanti non ce n'è più. No, attenuanti ce ne sono poche. Sulla questione del gol a freddo io sinceramente non riesco a prendere una posizione, nel senso che il gol a freddo può essere una grandissima apertura, cioè ti può aprire davvero le porte del paradiso, oppure ti può far pensare che tutto sia facile, e questo psicologicamente poi ti porta a considerare l'avversario ormai alle corde e a sbagliare. E secondo me è vero tutto, la cosa più vera è che l'Inter ha commesso degli errori individuali e di reparto davvero non degni di una squadra del blasone e della forza dell'Inter. Tutto questo accoppiato a una gestione complessiva del momento che probabilmente vede delle responsabilità anche da parte, senza probabilmente, che vede delle responsabilità da parte dell'allenatore, e tutto insieme fa il 2-5 di ieri sera, che è una sconfitta in questo caso proprio veramente da Inter, perché l'Inter in questo è davvero, ha una sua unicità, che è il fatto appunto di andare incontro a risultati così pazzeschi, perché comunque anche sul 2-2, ma ti dico di più, anche sul 3-2 per lo Schalke, sarebbe stato certamente un risultato orribile, però lo Schalke andava bene così, pur essendo in 10. Comunque io mi aspettavo qualcosa, cioè mi aspettavo una mezz'ora di fuoco comunque dall'Inter. Certo. E anche perdere 3-2, esagero, anche perdere 4-2. Era comunque un risultato che teoricamente poteva essere immaginato recuperabile, ma perdere 5-2 no, cioè tu devi vincere 4-0 là, e non è una cosa al di sopra delle possibilità. Poi magari lo fanno, però è al di sopra di ogni considerazione, ma forse no. Fabio, c'è stato nel frattempo, dato che c'è mezza Milano ovviamente che ride o comunque che l'ha presa in maniera divertente, tanto più dopo il derby dell'altra sera, c'è stato però anche una cartina di tornasole che riguarda il Milan indirettamente, e cioè il famoso Tottenham, non appena ha trovato una squadra vera da Coppa Campioni, ne ha presi 4 e è tornata a casa. Guarda, due cose. Intanto ero stato generoso con Edu, l'ultimo gol Edu l'ha segnato in novembre. Quindi vedi che... l'ha segnato in novembre, e ti dico anche in un 2-2 con il Wolfsburg sabato 13 novembre, in che sto parlando di campionato. E guarda, se l'Inter uscirà con lo Schalke, avremo questo dato, cioè il Milan eliminato dal Tottenham, cioè una squadra che potrebbe non entrare nella prossima Champions League. Sì. L'Inter eliminato dallo Schalke, ovvero una squadra che certamente non entrerà nella prossima Champions League. La Roma eliminata dallo Shakhtar Donetsk, che al quale auguriamo di vincere la Champions League, ma in questo momento è una delle ultime della fila, e la Sampdoria, che oltre a rischiare di andare in Serie B è stata eliminata da una squadra come il Werder Bremen, che però non ha passato i turni. Un conto è essere eliminati in una stagione, dico stagione nel senso complessivo, nella quale la nazionale italiana è stata eliminata al mondiale da un paio di squadre, certo, non particolarmente brillanti. Quindi un conto è venire battuti dal Brasile a livello di nazionale, o venire eliminati dal Manchester United o dal Barcellona. Un conto è venire eliminati da Slovacchia piuttosto che dal Tottenham o dalla certo. Schalke 04. Ricordo quanto mai opportuno il fatto, quindi ormai le prendiamo da tutti in ambito internazionale, il fatto che anche l'Inter sia caduta per mano di una squadra inferiore fa ovviamente più sensazione, perché l'Inter deteneva questo titolo. 3 minuti ancora, subito dopo l'intervallo, Fabio, per la vigilia di stasera, e una curiosità di atteggiamento, soprattutto che arriva di atteggiamento mentale che arriva da Barcellona, le strade. In attesa dei vostri interventi in diretta cominciamo a sentire qualche voce. Quella di Moratti è di stamane ed è un tentativo di spiegare questa disfatta che, insomma, in queste proporzioni a parer mio rimane inspiegabile, ma insomma in qualche maniera bisognerà pure che ci provino perlomeno dall'interno a capire come è potuto accadere. Sentiamo Moratti. È inaspettata come cosa, però insomma è una lezione. Però i giocatori sono sempre gli stessi, e quindi vediamo lo stesso di affrontare il tempo. Molte volte le cose che sembrano impossibili poi per qualche ragione strana diventano più facili, quindi vediamo di saper capire come trasformare queste due cose in qualcosa di positivo. Non è facile, ma insomma al momento, ma io credo che tutto sia dovuto molto alla stanchezza, credo. Se è quello, vediamo di rimetterci in pista anche con i giocatori che abbiamo a disposizione. Mi è sembrato che ci fosse un po' meno partecipazione, ma non per volontà, proprio per mancanza di forza a un certo punto. Confermo che è una persona intelligente che sta facendosi un'esperienza che non è certamente facile, fa dei ragionamenti intelligenti. Il calcio è legato anche a tante cose, che sono la fortuna, il tempismo, tante cose. Questo è un momento da saper superare, da poter superare. Ma siamo tutti molto collegati, molto insieme, molto uniti. Non è questa situazione che ci faccia paura. Insomma. Sul Sole 24 Ore di ieri mattina c'era un articolo a firma Gianni Dragoni che diceva: nella partita dei conti, cioè del conto economico, lo Schalke 04 piega l'Inter, e l'ultimo capoverso era il seguente: i tedeschi sbaragliano i nerazzurri in risultato netto, l'ultima riga del bilancio. L'esercizio 2009 dello Schalke si è chiuso in perdita per 16,8 milioni, un risultato negativo, ma l'Inter ha perso 69 milioni nell'ultimo bilancio e 371 negli ultimi 3 anni. Grazie a questo gol nella partita dei conti, il piccolo Schalke 04 batte la grande Inter 2-1, aveva detto Gianni Dragoni. A me il punteggio sembrava già più netto ieri, perché da 16.8 milioni a 69 oppure a 371 negli ultimi tre anni, altro che 2-1. In ogni caso, da 2-1 a 5-2 al 5-2 il salto è davvero robusto. Abbiamo sentito Moratti, io sentirei uno dei trionfatori della serata, forse il trionfatore, visto che il grande Raul si giocava ieri sera proprio sul campo di San Siro, quindi sul campo di Inzaghi, non solo il risultato dello Schalke 04, ma anche la sua corsa personale al titolo di capocannoniere di tutti i tempi delle coppe europee, proprio in lizza con Inzaghi. Un gol gli sarebbe servito a staccare il suo rivale italiano. Sentiamo Raul. Una noche bonita, pero no es definitiva, ¿no? Es el campeón, el Inter y los futbolistas sabemos que hay que jugar 90 minutos, que pueden pasar muchas cosas. El Inter tiene grandes jugadores y no creo que vayan a dar el partido por perdido. Hai sentito, Fabio, il vecchio Raul? Sì, il vecchio saggio. Effettivamente è così. Vecchio, vecchio sarà lei, direbbe Raul. Certo. Perché mi è sembrato che insomma, i giovanotti che cercavano di marcarlo ieri abbiano fatto molta, molta fatica. Insomma, certo. Senti, allora, derby inglese stasera, credo, cioè, tutto sommato abbastanza imperdibile, Chelsea-Manchester, ma un'occhiatina a Barça-Shakhtar Donetsk, proprio perché la vigilia di Guardiola è stata abbastanza sorprendente e forse logica, nel senso che Guardiola ha usato parole insolite per segnalare il pericolo di questi ucraini. Ma anche perché lo Shakhtar il Barcellona lo conosce bene, perché comunque il Barcellona ha affrontato lo Shakhtar in una finale di Supercoppa e ha vinto soltanto nei secondi finali grazie a un gol di Pedrito. Per quanto riguarda complessivamente la gestione dello Shakhtar, Guardiola sa bene, conosce bene Mircea Lucescu, sa bene che questo è un allenatore che è capace di mescolargli le carte e soprattutto conosce bene la capacità tattica e anche complessivamente tecnica dello Shakhtar. Qui è ovvio che dipende tutto dal Barcellona, perché il Barcellona può più o meno può fare e disfare, e il risultato dipende quasi sempre dal Barcellona. Secondo me è opportuno che adesso il Barcellona cominci anche ad usare un po' le forze, perché lo aspetta un finale di stagione veramente con i botti. Oltretutto con il timore, che credo sia anche strisciante ma inconfessato, che il Barcellona si sta vincendo la Liga e lo vincerà, ma non dovesse vincere la Coppa del Re e non dovesse andare in finale, ergo vuol dire perdere due volte in un confronto diretto con il Real Madrid, ecco che parecchie ombre sulla stagione del Barcellona si addenseranno. Quindi da un lato c'è il Barcellona che ha la necessità di fare subito cassa e chiudere la partita, sa benissimo che Lucescu arriverà e tatticamente non sbaglierà la partita. Tutti sanno che se il Barcellona non vince 2-3-0 può essere considerata una delusione, e quindi Guardiola fa bene anche per tenere un po' sulla corda i suoi, soprattutto memore del fatto che dall'altra parte c'è uno molto bravo con una squadra che se anche dovesse perdere nessuno gli dirà niente, mentre invece insomma se il Barcellona dovesse fallire sarebbe davvero una catastrofe. Piccola nota storica, lo Shakhtar è una squadra che è legata comunque al Barcellona, ma soprattutto a Leo Messi, perché in una fredda notte di dicembre del 2004 in Champions League esordiva un ragazzino molto molto esile, minuto e magro, si chiamava Lionel Messi ed era la prima partita europea di questo fantastico giocatore, proprio contro lo Shakhtar, che quella partita la vinse 2-0. Lo Shakhtar. Sì. Dai, la partita non era influente perché il Barcellona era d'accordo, ma però per dire che l'intervento di Guardiola è solo in apparenza paradossale, no? Sulla base non lo è per niente. Non lo è di per tutto niente. Quello che ci hai spiegato. Va bene. Ci godremo Chelsea-Manchester con un occhio di riguardo per questa partita del Barcellona, che tu hai ragione. Nel prossimo mese rischia, fin qui ha costruito un'annata stupenda, ma praticamente la rimette interamente in palio da qui al... Con confronti diretti, tra l'altro, 6, con il Real Madrid. Esatto, con un gran, con un signor Real Madrid, tra l'altro. Esatto. Ma davvero un signor Real Madrid in netto crescendo. Grazie Fabio. Buon Vinitali, saluti a tutti. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24, c'è già un ascoltatore in attesa, potremmo forse dare spazio a lui. Lorenzo da Lucca, buongiorno. Buongiorno Garanzini, le volevo fare una domanda e le volevo fare un rimprovero. La domanda è questa, volevo sapere se secondo lei Luciano Moggi e il presidente del Palermo Zamparini sono comunque competenti di calcio, e invece la volevo rimproverare per il fatto che aveva detto che invitava Tonellotto a parlare, ma non lo può più fare perché oggi è stato condannato definitivamente a 1 anno e 8 mesi e l'hanno arrestato. Ecco, l'ascolto per radio. E beh, e quindi cosa fai? I collegamenti con le carceri non sono, non so se sono possibili o meno, ma diciamo che non sono attualissimi. La prima domanda sinceramente non l'ho molto capita, cioè dire Zamparini possiamo anche lasciarlo perdere, non ha molta importanza, ma dire che Moggi non sia o non fosse, ma direi non sia un grande competente di calcio sarebbe una bestemmia, perché credo ci sia, non credo, c'è la sua carriera che parla per lui, e dal punto di vista della competenza calcistica, della capacità in particolare di avere l'occhio lungo e di sapere valutare un giocatore sbagliando come tutti sbagliano, ma con una percentuale di errore nettamente inferiore alla media, la capacità di valutare, di proiettare un giocatore su una dimensione, nella sua vera dimensione, individuando quindi anche i campioni, beh, insomma, che Moggi fosse il primo della classe credo che non sia mai stato in discussione, non da parte mia, in ogni caso. Marco, chiamato da Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Semplicemente una domanda. Io ho sempre pensato che quando si vince una squadra, che quando una squadra di calcio vince, forte è la società, non solo la squadra. Non le sembra un po' che quest'Inter è andato via il carisma e la forza di Mourinho, che uno ne possa pensare è comunque un grande allenatore, è un grande uomo d'azienda, sia tornata un po' l'Inter degli anni scorsi, cioè anche il Leonardo che nel Milan funzionava sotto Galliani, Braida, ora nell'Inter si trovi un pochino più spaesato rispetto all'anno scorso, ecco, una cosa del genere. Ma insomma, vale un po' il discorso fatto per Moggi. Io ho sempre dichiarato la mia incompatibilità con Mourinho da un punto di vista di comportamenti, di atteggiamenti, di antisportività, di tutti questi cose, però dal punto di vista tecnico, insomma, può aver commesso può capitare anche a lui di sbagliare qualcosa, ma insomma dal punto di vista tecnico non mi pare che anche in quel caso la carriera parli da sé. Dire che poi questi giocatori siano così abbandonati a se stesso, io su questo non ci andrei pianino, bisognerebbe tenere conto di mille parametri, a cominciare da quello degli infortuni, a cominciare da tante cose, da un anno di più, dal complesso della pancia piena, sono tutti argomenti che concorrono a spiegare sempre, ma non nel caso dell'Inter, sempre, hanno sempre concorso a spiegare il perché ha una stagione trionfale, con tutta probabilità, o comunque ragionevolmente ne segue una mediocre o disastrosa. Quella dell'Inter sembrava un'annata semplicemente di ridimensionamento a questo punto. Anzi, prima sembrava molto mediocre fino alla gestione Benitez. Poi sembrava invece potesse rifiorire adesso dopo ieri sera, fino a ieri sera. Poteva essere contraddittoria, ma insomma non così negativa. Da ieri sera in avanti un'annata su cui si possono spendere aggettivi un po' diversi, e arrivare anche a disastroso se non riescono a raddrizzarla con un colpo d'ala da una parte o dall'altra. Ma certo, a questo punto mi sembra difficile sia sul fronte campionato che sul fronte Coppa. Ci torniamo subito dopo l'intervallo per... No, l'intervallo per i mercati manca ancora un minuto. No, ho visto male l'orologio, domando scusa. E allora c'è Giorgio che ha chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Guardi, io sono tifoso Viola, ma ieri sera sono rimasto molto infastidito dal modo in cui l'Inter ha perso, no? E allora io sono sempre più convinto, ne parlammo proprio con lei anche qualche mese fa, che un problema grosso del nostro calcio sia stato quello di perdere con leggerezza, tra virgolette, gli allenatori più esperti. E quello secondo me è determinante in questo tipo di competizioni, perché un allenatore esperto, e quindi non Leonardo, non poteva non accorgersi, secondo me, che una squadra come l'Inter, l'abbiamo vista tanto ieri sera che il sabato col Milan, era in chiara difficoltà fisica, correva addirittura al centrocampo del Milan, correvano il doppio, e ieri sera non ne parliamo. E allora un allenatore esperto avrebbe dovuto, anche se l'avversario si chiamava Sciacchi, anzi soprattutto per quello, fare una partita un po' più chiusa. Non giochi col Barcellona, che comunque sai che ti fa tre gol. Se giocavi un po' più accorto, magari portavi a casa l'1-0 o il 2-1 e la partita te la giocavi. Lì è proprio un'inesperienza di Leonardo, secondo me. E come sempre, voi, secondo me, invece, ma questa è un'opinione, come sempre sopravvalutate il ruolo dell'allenatore, che non può non avere le sue responsabilità e in questo caso le sue colpe, ma voi, molti di voi continuano a ragionare come se i giocatori in campo fossero 11 marionette i cui fili vengono tirati dalla panchina. Insomma, io credo che anche Leonardo se così fosse, ne dico uno a caso, forse Leonardo il filo di Thiago Motta lo tirerebbe un pochino più veloce, no? Per riuscire a farlo muovere. Cioè, sembra un giocatore Findus nelle ultime due partite, sembra surgelato da come si muove, anzi non si muove. Non sono marionette i giocatori di cui l'allenatore muove i fili, sono loro gli interpreti invece delle partite. Torniamo in onda con insomma, l'intenzione in linea di massima di cambiare argomenti. Ce n'è uno che sta ottenendo un discreto successo e che riguarda la dichiarazione di voto, in un certo senso, di ieri del commissario tecnico della Nazionale Prandelli, che ha detto: io tifo Napoli, ha spiegato insomma di considerare intanto Mazzarri come il Maradona di questo nuovo Napoli, cioè insomma il segreto di questa squadra, e poi ha detto tra Milan e Napoli io tifo Napoli, e l'ha detto schierandosi in maniera abbastanza aperta, non sfumata. Al che oggi l'amministratore del Milan Galliani, con una telefonata al presidente Abete, leggo da un'agenzia, ha manifestato tutto il suo stupore per queste dichiarazioni. Galliani è rimasto dispiaciuto e sorpreso dal fatto che CT della Nazionale si sia sbilanciato a favore di una squadra, da qui la decisione di telefonare direttamente ad Abete per manifestare il proprio disappunto. E va bene, è una di quelle classiche cose in cui, almeno secondo me, di quelle classiche vicende in cui nessuno ha del tutto ragione e nessuno ha torto, perché in fondo io credo che il CT, il commissario tecnico, possa anche avere una preferenza e la possa anche esprimere, visto che al massimo lui convoca, ma certamente non arbitra non influisce. Detto questo, magari potrebbe esprimerla, sì, perché il diritto di parola c'è ancora, ma magari in maniera un tantinello più sfumata, se non altro per evitare appunto reazioni di questo genere, che però ci stanno, secondo me. Non mi pare che, se queste sono le parole di Galliani, non mi pare che siano sgradevoli e nemmeno particolarmente infondate. Vedo molti ascoltatori sul display, immagino che vogliano intervenire a larga maggioranza su Inter Schalke 04. A proposito, un messaggio fa notare che la speranza dell'Inter è nella ragione sociale stessa dello Schalke, perché è vero, Schalke 04, che è esattamente il punteggio che all'Inter servirebbe per qualificarsi. Ce l'hanno nel DNA, fa notare questo ascoltatore a nome Guido, e perché allora non sperarci? Potrebbe forse l'unica attaccarsi a questo, ma in fondo perché no? Poi avrei anche un paio di buone letture da proporvi di giornata. Però prima sentirei questi altri tre ascoltatori. Piero Trani, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei sapere una cosa, scusa. Per quello riguarda l'Inter, ho notato che da quando c'è stato per quanto riguarda la Juve, quello che è successo alla Juve, tanto delle squadre in Italia, tipo Milan che ha venduto tutto, e vi è emerso l'Inter. Non è che è stata data tanta importanza all'Inter per quanto riguarda la squadra, e non è proprio l'Inter che non è all'altezza, perché pensando che quell'anno l'Inter in Italia non c'era più né la Juve, né la Roma, né il Milan, né tante altre squadre, siccome intorno non c'era più le squadre inglesi che stavano facendo la certo, squadra certo. E cominciava poi... anche a smembrarsi la Russia, dopo che già l'impero sovietico, intendo dire, dopo che già quello insomma, la grande nazione jugoslava nel frattempo si era divisa in Bosnia, Slovenia, eccetera eccetera. Grazie Piero del suo intervento. Dicevo per l'appunto che era il caso, avevo anche qualche buona lettura da proporvi. Allora, quella che vi propongo oggi in particolare è il primo numero di E, che è il mensile di Emergency, uscito stamane in edicola, diretto dal mio amico, credo anche vostro o comunque di molti di voi, Gianni Mura, è davvero un mensile tutto da leggere. Non ho ancora trovato in questo primo numero, ma l'ho sfogliato un po' rapidamente, non ho ancora trovato gli argomenti sportivi, ma questo non significa che una pubblicazione di questo livello non possa trovare spazio e segnalazioni anche all'interno di una rubrica sportiva come questa, ma che insomma un'occhiatina al sociale, sia pure di rimbalzo, al sociale e al civile ogni tanto gliela dà. Basterebbe una stupenda intervista proprio di Gianni Mura a Mariangela Melato, in cui tra tantissime domande e tra tante tra tante cose preziose che emergono da questa conversazione, da un racconto e da racconti straordinari di Mariangela Melato, a un certo punto la domanda di Mura è se anche lei, che sta per compiere 70 anni, pensate, la Melato, non abbia ancora pensato di fare qualcosa per, come dire, rallentare l'invecchiamento, no? E quindi per rifarsi, come oggi purtroppo usa, anche ad età nettamente più giovani. E allora la Melato risponde, dice: sa cosa diceva la grande Anna Magnani al truccatore che voleva ridurle le rughe? Diceva: a core non me le tocca, che ci ho messo una vita per avelle. Ecco, io, questo è un piccolo scampolo di che cos'è questa nuova rivista, di questo nuovo mensile da oggi in edicola, dal titolo È, diretto da Gianni Mura. Lorenzo, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, salve Garanzini. Dica. Niente, io volevo dire che mi sembra che questi interisti, senza voglio far polemiche, che si lamentino un po' troppo. Prima dicevano che perdevano per colpa di Moggi, ora perché Leonardo era allenatore del Milan. Nel senso, si lamentano che hanno sbagliato la partita e basta. Certamente sì, ringrazio molto anche lei e passo alla seconda lettura di giornata. In questo caso non è una rivista nuova, è un quotidiano molto vecchio, molto antico, che si chiama La Gazzetta dello Sport, e la cui rubrica più interessante, per me almeno, questo è un giudizio nettamente personale, continua a essere Porto Franco, e cioè la rubrica di lettere che vengono inviate alla Gazzetta e a cui risponde il mercoledì e il venerdì Franco Arturi. Io non vi leggo la risposta oggi, vi leggo la lettera, che è una lettera firmata, e dato che so chi è Franco Arturi, non ho il minimo motivo di dubitare che questa lettera sia autentica, leggo solo di Arturi le prime tre righe di risposta, che dice: ho aderito eccezionalmente alla sua richiesta, si rivolge al lettore, di non pubblicare il suo nome perché siamo in presenza di un fatto molto grave, anche se non sorprendente, che va al di là delle consuete denunce ormai, eccetera. La lettera è la seguente, le scrivo per descriverle la situazione allucinante in cui mi sono trovato la sera di Milan-Inter. Sono con la bambina di 12 anni, non le dico la procedura irritante di sicurezza per accedere all'ingresso della curva nord dove erano i nostri posti. Dopo il secondo gol del Milan decidiamo di uscire. Sulle scale che portano all'uscita vedo almeno una decina di persone che beatamente sniffano cocaina alla luce del sole, senza nemmeno curarsi del fatto che passasse un padre con una bambina per mano. Mia figlia mi chiede cosa stiano facendo queste persone e ammetto che rispondere che stanno giocando con dello zucchero. Scioccato me ne vado, chiedo agli steward di poter uscire dallo stadio, ma loro mi dicono che per uscire devo fare un giro assurdo fino al cancello 7-8. A quel punto mi ribello e dico loro che io con la bambina vengo vessato per poter entrare e uscire dall'impianto, mentre sulle scale dello stadio ci sono personaggi inquietanti che sniffano cocaina a tutto spiano. Risposta: vada via o chiamiamo la polizia. Bene, poi non si domandino i nostri soloni perché molti non vanno più allo stadio. Altro quesito, perché viene perquisito lo zaino della mia bambina e le viene tolta la bottiglietta d'acqua e poi entra gente con la droga? Distinti saluti. Pino, dalla provincia di Brescia. Sì, Garanzino, buongiorno. Buongiorno a lei. Una considerazione, io sono tifoso milanista anche se non di quelli accaniti, no? Però dico, il problema dell'Inter non è che è cominciato qualche settimana fa già col Bayer, che già nel primo tempo poteva prendere, diciamo, qualcuno di più di quelli che aveva preso, e continuate con l'Inter adesso alla partita finale. Cioè, adesso Leonardo ha fatto bene, a me mi dispiace per Leonardo perché è un signore, però fino adesso ha fatto 13-14 partite tutte consecutive, però ultimamente mi sembra che hanno avuto quel calo che si può dire. L'ascolto per radio. Ma c'è poco da ascoltare, cioè, credo che basti vedere. Io credo che oggi l'Inter e gli interisti darebbero qualcosa per essere usciti a Monaco, no? Perché a pensarci così a freddo, no? Visto che quel miracolo arrivò all'ultimo minuto, e che quello di Pandev, e che dopo lo 0-1 in casa aver pareggiato 2-2 a Monaco rischiando di vincere e arrivandoci vicino, eccetera, sarebbe stato un bel modo per uscirne. Certamente un modo migliore rispetto a questo assai inglorioso di un 2-5 in casa contro non il Bayern ma lo Schalke 0-4, a meno che, come segnala quell'ascoltatore, ripeto, questo 0-4 non ce l'abbiano già nel nome, e quindi non diventi poi reale. Ma insomma, è abbastanza improbabile che sia così. Io credo anche che di colpo all'Inter, lo so che questa non è una spiegazione razionale, ma credo molto io nel calcio al fatto che quando il fattore C ti regge per un po' di tempo, poi arriva il momento in cui se ti molla di colpo e paghi anche delle cose pregresse e magari con gli interessi. Io credo che senza tornare troppo indietro nel tempo, ma semplicemente il finale di primo tempo di Monaco, in cui il Bayern non ha segnato il secondo, il terzo, il quarto, forse anche il quinto gol, come lo Schalke ieri, per una combinazione astrale che tuttora è abbastanza misteriosa, si sia presentata ieri sera. Questa potrebbe essere, ripeto, non una spiegazione intelligente, però una di quelle che ogni tanto funzionano. Tocca alla rubrica di Nicola Filippone, vediamo cosa è successo un 6 aprile. Sembra ieri. 6 aprile 1993. Il Parma di Scala espugna il Vicente Calderón di Madrid nell'andata delle semifinali di Coppa delle Coppe. La formazione emiliana si impone per 2-1 sull'Atletico grazie a due capolavori di Tino Aspriglia. Con la vittoria ottenuta in trasferta si avvicina quindi per il Parma la prima storica finale europea da disputare nel Tempio di Wembley. Al ritorno i gialloblu soffriranno perdendo per 1-0, ma non falliranno l'obiettivo. Il 12 maggio a Londra, sconfiggendo per 3-1 l'Anversa, porteranno la provincia italiana sul tetto d'Europa. Nicola Filippone oggi ha fatto gli straordinari perché ha tirato fuori una curiosità non da ridere che riguarda Leonardo, a cui era già capitato di subire 5 reti in casa in un incontro di Coppa Europea. Non era allenatore, evidentemente era calciatore, quindi la situazione è enormemente diversa, però la curiosità rimane ed è una curiosità, ripeto, griffata a Filippone. Valencia-Napoli 1-5, 16 settembre 1992, 5 gol di Fonseca, che credo sia una cosa storica e irripetibile nella storia del calcio, contro un gol Fonseca al 21esimo, Roberto del Valencia al 54esimo, e poi dal 60esimo in avanti al 90esimo altri 4 gol di Fonseca per un Valencia-Napoli 1-5. In quel Valencia giocava Leonardo. Adesso passiamo a Delio Rossi, perché è tornato sulla panchina del Palermo e ci ha imbastito un ragionamento che, come sempre, i ragionamenti di Delio Rossi, a differenza di quelli di Zapparini, valgono la pena di essere ascoltati. Loro lo sanno, non c'è bisogno di fatti, e i fatti si possono fare solo in campo. Noi possiamo dire, quanto c'è queste situazioni, ci sono sempre confronti, poi finisce sempre con la letterina di Buon Natale: vedrete che d'ora in avanti faremo bene, saremo bravi, non faremo più queste cose, di qua di là, e diventa la letterina di Natale. Noi la letterina di Natale dobbiamo fare in campo, dobbiamo trasformare le parole, cose. Quindi non c'è bisogno, secondo me, di incontri. Ma sai cosa, cioè, per me è una sconfitta, perché onestamente se fosse stato per me non mi sarei neanche andato, quindi per me è una sconfitta l'essere richiamato. Non è vero, una soddisfazione e vedere la squadra giocare in una certa maniera e vedere cose. E dispiace magari vedere che molte volte certe situazioni non vanno e non c'entra il discorso tecnico. Questa per me è una sconfitta, quindi io non c'ho bisogno di gratificazioni personali. Questa per me è una sconfitta, dice Delio Rossi, ed era un discorso serio, come avete sentito. Poi potrebbe essere anche presa in maniera, come dire, leggermente più umoristica, perché è chiaro che tornare a lavorare alle dipendenze di Zamparini non può che essere una sconfitta, ma non credo fosse questo il significato che Rossi voleva attribuire alla frase. C'è un altro allenatore, tutt'altro che debuttante, tutt'altro che di primo pelo a sua volta, come Colomba, però nel suo caso è una ridiscesa in pista alla guida del Parma. Sentiamolo. Io credo che le carte in regola per riuscire a centrare l'obiettivo di quest'anno ci siano, e fa un po' stupore vedere una piazza e una squadra come il Parma, che anche quest'anno ha fornito ottime prestazioni in certi momenti, altre meno ovviamente, essere in questa posizione di classifica. E allora cercheremo di invertire la tendenza senza pensare o promettere chissà cosa, se non di dare tutti noi stessi per centrare appunto l'obiettivo importante di questa stagione, che è rimanere in Serie A. Ha chiamato da Milano un ascoltatore a nome Igor. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io volevo porre una domanda che non c'entra poco con l'Inter di ieri sera. Volevo sapere da lei un suo parere sul fatto, perché in Italia non c'è la cultura della sconfitta. Io l'ascolto sempre con molto piacere, soprattutto il lunedì è un seguirsi di ogni volta, c'è dietro la sconfitta c'è una dietrologia, c'è la politica, è l'errore arbitrale, non si accetta mai la sconfitta, come appunto io da interista dico ieri sera. Secondo il mio modesto parere, Leonardo non è un allenatore finito, ha sbagliato l'approccio, la preparazione alla partita e si è perso con una buona squadra ben messa in campo, senza andare a cercare ogni volta una scusa. E si perde nel calcio, si vince, si perde bene, si perde male, però c'è anche la sconfitta che fa parte, secondo me, dello sport, e quindi bisogna accettarla. Volevo sapere, secondo lei, perché in Italia soprattutto non c'è questa cultura. Grazie mille. Ma nel caso di ieri sera non mi sembra che ci sia, perché non ho visto fare drammi particolari. Cioè la cultura della sconfitta, secondo me è giusto chiamarla in causa quando a una sconfitta seguono le cariche della polizia, i lanci di petardi, le contestazioni ai giocatori, i pullman presi d'assalto. Allora, lì è giusto chiamarla in causa. In questo caso mi sembra che non sia accaduto niente di tutto questo, e quindi che il verdetto sia stato accettato. D'altra parte, quello sulla cultura della sconfitta è un discorso serissimo che andrebbe fatto sin dalla più giovane età e andrebbe insegnato ai ragazzini nelle scuole che fanno sport a perdere prima che a vincere, perché poi questo ti riserva la vita, no? In linea di massima, nel senso che a vincere uno e a perdere sono tutti gli altri. Ma ripeto, nel caso di ieri non mi sembra. Se poi c'è stato questa sconfitta, ha fatto particolarmente rumore, beh, insomma, io credo che un outsider che vince fuori casa sul campo dei detentori della Coppa e vince per 5-2, credo che non possa che fare sensazione una cosa di questo genere. Penso proprio che sia inevitabile, come è inevitabile che gli stessi tedeschi esagerino, no? Magari con i loro titoli. Io sto vedendo la rassegna stampa dei quotidiani di stamane, allora geniali, grandiosi, giganteschi, sono alcuni dei titoli con i quali i quotidiani di stamane hanno titolato a tutta pagina a proposito dei giocatori dello Schalke. Ma ripeto, è normale, perché è stata un'impresa che nessuno si aspettava, e nemmeno loro, nemmeno i diretti interessati, perlomeno in queste proporzioni. Marco ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Niente, io volevo fare un commento su quella che era la sicurezza negli stadi in Italia, nel senso che io non vado più allo stadio, ho smesso, ma gli episodi delinquenziali sono assolutamente alla luce del sole, nel senso che viene fatta la perquisizione eccetera eccetera, ma poi è sotto gli occhi di tutti una volta che si è dentro lo stadio. il fatto di vedere bastoni, gente che sniffa cocaina, cioè, quindi è assolutamente allibente il fatto che poi in realtà passata quella perquisizione poi è finita lì. Ecco, secondo me non ci sarebbe neanche bisogno di fare gli stadi nuovi perché sono più sicuri, basterebbe semplicemente fare un giro dentro lo stadio, certo, quando comincia la partita, ecco, applicare le leggi e non far finta che in Italia, non prenderci in giro anche in questo, poi in realtà ci pigliamo in giro su cose estremamente più gravi, ma insomma perlomeno non prenderci in giro sul fatto che gli steward siano sufficienti a garantire non solo l'ordine pubblico ma anche il vivere civile sugli stadi, e per esempio che una padre e figlia non debbano essere costretti ad assistere a una scena come quella di prima. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, appuntamento a domani da Bologna, da Verona, da Vinitaly, per tutta Radio 24, e buon pomeriggio.